Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Nel giorno nel quale Israele celebra il giorno della memoria, l'Europa ancora spaccata al vertice di Ginevra sul razzismo. I rappresentanti che ieri avevano lasciato i lavori durante il discorso di Ahmadinejad sono rientrati. Borse in leggero recupero dopo le forti perdite di ieri. Vanno ancora male le esportazioni italiane. A febbraio la flessione maggiore dal 93. E domani apre a Milano il Salone del Mobile. In XL un focus sul settore. Sicurezza sul lavoro, polemica sulla cosiddetta norma salva manager. I parenti delle vittime della Thyssen scrivono a Napolitano. Per la ricostruzione dell'Abruzzo terremotato bastano meno di 12 miliardi di euro, lo dice il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli. Oggi la direzione del Partito Democratico per decidere le liste per le europee. Berlinguer candidato nel nord-est. Buongiorno da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. Oggi abbiamo deciso di aprire con questi suoni. Sono quelli delle sirene con le quali Israele ricorda la Shoah. Nello Stato ebraico questo è stato il giorno della memoria. Il paese si è fermato alle 10 in punto, le 9 in Italia. Tutti gli israeliani hanno interrotto le proprie attività rimanendo in raccoglimento per 2 minuti. E questo proprio oggi, quando riecheggiano ancora le parole brutali del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad al vertice ONU sul razzismo in corso a Ginevra. Sempre oggi davanti al Palazzo dell'ONU di Ginevra c'è una manifestazione di israeliani, da una parte per ricordare la Shoah, dall'altra come forma di protesta contro quanto accaduto ieri. Mentre Ahmadinejad lanciava proclami d'odio nei confronti di Israele, definendolo fra le altre cose uno stato razzista, ieri i delegati europei hanno lasciato la sala, ma l'Europa resta divisa. Resta divisa l'Europa nel secondo giorno della conferenza ONU sul razzismo a Ginevra. Alle affermazioni del presidente iraniano Ahmadinejad contro Israele, l'Unione Europea ha espresso la sua ferma opposizione. Tuttavia, 22 paesi hanno deciso di restare alla conferenza e hanno affermato di essere pronti a dare il loro consenso al documento finale che dovrebbe essere adottato venerdì. Ieri gli ambasciatori europei avevano lasciato l'aula durante il discorso di Ahmadinejad che, rientrato in patria, è stato accolto trionfalmente. Le autorità della Repubblica Islamica gli hanno organizzato un benvenuto da eroe. Alcune decine di militanti fondamentalisti hanno gridato slogan come «Morte all'America» e «Il regime sionista va sradicato» quando il presidente è uscito dall'aeroporto. Il giorno dopo, a Ginevra, le delegazioni di 22 paesi europei proseguono i lavori, mentre 5, tra cui l'Italia, su un totale di 27, hanno boicottato il vertice. Così come hanno fatto gli Stati Uniti e il Canada. La Francia, che è tra i paesi che hanno deciso di non lasciare la conferenza, ha spiegato la sua posizione tramite il suo ministro degli esteri, Bernard Kouchner. Parce que c'est pas du tout un échec. È stata tutt'altro che una sconfitta, piuttosto è stato l'inizio di un successo, ha affermato in un'intervista a Radio Europe 1. La Francia e gli altri paesi europei, ha spiegato, ieri hanno lasciato l'aula perché il discorso di Ahmadinejad era inammissibile, ma non abbiamo lasciato la conferenza. E se Durban 1 è stata una flessione, Durban 2 si appresta ad adottare un testo in cui figura tutto quello che desideriamo, tutto quello che i paesi occidentali vogliono. Ahmadinejad era prevedibile, ma ci sono 192 paesi nell'ONU, ha ricordato. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ma se alcune affermazioni di Ahmadinejad sono state accolte con orrore dalle diplomazie dei paesi occidentali, cosa accade nei paesi arabi? Adib Fateh Ali, cosa dicono i giornali arabi oggi in edicola? La stampa araba è davvero nettamente divisa sul discorso di Ahmadinejad. I principali quotidiani moderati, con evidente taglio critico, mettono l'accento sulla tempesta di proteste provocate in tutto il mondo dalle sue parole, mentre quelli anti-occidentali si schierano decisamente a favore del presidente iraniano, accusando l'Occidente di ipocrisia. Ahmadinejad non ha detto che la pura verità, lo sostiene il palestinese Al-Quds Arabi, spalleggiato dal libanese Al-Safir, che accusa le delegazioni europee che si sono ritirate di avere rifiutato le regole della democrazia, di controbattere l'avversario ed inscenato un teatrino al solo scopo di oscurare la verità sul razzismo. Per il grande giornale panarabo Eshat Al-Awsat invece è l'uomo di Teheran ad avere fatto uno spettacolo indegno che ha compattato l'opinione pubblica mondiale a favore di Israele, contro il quale il suo paese non ha dato neanche un martire. Grazie al nostro Adib Fateh Ali. Noi abbiamo aperto con il giorno della memoria che si celebra in Israele e ora andiamo proprio in Israele. Sì, in Israele, dove fervono i preparativi per un'iniziativa sportiva in particolare. Si corre giovedì la Maratona della Pace, intitolata Giovanni Paolo II, organizzata dal Centro Sportivo Italiano. E da oggi ogni giorno ci collegheremo nel corso di XL con un seppur giovane ma è un pezzo di storia della pallavolo e nostro anche collaboratore, Andrea Zorzi. Ben ritrovati a tutti. Buongiorno, allora come si svolge questa maratona? Questa maratona è la sesta edizione, per due volte è partita da Gerusalemme ed è arrivata a Betlemme, nelle altre quattro edizioni invece la partenza è da Betlemme, cosa che avverrà anche giovedì mattina, per arrivare poi invece a Gerusalemme. La ragione principale è che gli israeliani non vengono in territorio palestinese per questioni di sicurezza, perché l'esercito non permette agli israeliani di andare a Betlemme. Diverso invece il permesso che hanno i palestinesi per arrivare in territorio israeliano. Dopo un accurato controllo dei passaporti, molti ragazzi giovani che partecipano a questa iniziativa possono passare attraverso il varco che divide Gerusalemme da Betlemme, in questo muro davvero impressionante. E questa verrà giovedì, la partenza è presto perché qui fa già abbastanza caldo, siamo intorno ai 30 gradi, quindi alle 8:30 si parte, intorno alle 10 si arriverà qui a Gerusalemme. Andrea, quali sono gli italiani illustri, oltre a te naturalmente? Io ormai sono quasi uno che è qui da un po' di anni, no, quest'anno c'è una bellissima presenza di Demetrio Albertini, cacciatore e vicepresidente della Federazione Calcio, e anche di Giovanna Trillini, i quali faranno i portabandiere, porteranno la torcia in questa bella iniziativa. È nata naturalmente nel 2002, quando c'era l'intifada, quando c'erano situazioni veramente molto complicate, allora si pensava di poter dare un segnale positivo verso l'esterno, caratterizzando con un evento sportivo. La maratona sembrava il gesto più semplice e più lineare, e così è nata. Dal 2004 in avanti, all'inizio con molte difficoltà, la continuità ha fatto sì che entrambe le parti, palestinesi e israeliani, trovassero in qualche modo un accordo. È evidente ed è facile immaginare che il controllo sta più dalla parte degli israeliani. Stamattina, mentre c'erano le sirene che squillavano, eravamo al Ministero del Turismo a parlare con il loro direttore per capire quali fossero i rischi. E a tal proposito invece i contatti con i palestinesi sono tenuti da padre Ibrahim, che forse voi ricordate come quello che gestì le trattative con i 13 terroristi che erano all'interno della Basilica della Natività a Betlemme nel 2002. Quindi questo era un po' il gioco di potere, e devo dire che è sempre molto interessante vedere quali sono le condizioni, quanto siano vicini i conflitti in questa terra, però fortunatamente nel momento della maratona c'è un ponte, come diceva Giovanni Paolo II, e non un muro. Grazie Andrea Zorzi, poi torneremo a collegarci con te nei prossimi giorni, perché le storie da raccontare da là sono veramente tante. Ora parliamo della liberazione, la liberazione italiana dal nazifascismo, il 25 aprile, che come ogni anno diventa fonte di polemiche. C'è ancora incertezza sulla partecipazione alle celebrazioni, ad una delle celebrazioni, di Silvio Berlusconi, invitato dal leader del Partito Democratico Franceschini ad andare al corteo di Milano. Ma intorno all'eventuale partecipazione del Premier, come dicevamo, c'è non solo incertezza ma anche polemica. La sinistra radicale insorge, esponenti della maggioranza invitano Berlusconi a non cadere in quella che definiscono la trappola di Franceschini. Ma che cosa ne pensano gli organizzatori del corteo? Maria Luisa Pezzali ha intervistato Raimondo Ricci, vicepresidente dell'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Purtroppo da parte del grande maggioranza, non so se proprio di tutti, di coloro che appartengono a questa destra, c'è una visione della resistenza assolutamente artefatta rispetto alla verità della storia, insomma. E quindi, diciamo, se l'intento nel venire è quella di celebrare una data che deve essere una data di coesione nazionale intorno ad una grande pagina della storia del nostro paese, la presenza di Berlusconi, credo che se fosse una presenza sincera di voler veramente non alterare le realtà della resistenza, separando la resistenza buona dalla resistenza cattiva. Secondo lei rischia contestazioni? Non lo so. Certamente gli atteggiamenti che l'attuale nostro premier ha preso nella sua azione politica non sono certo incoraggianti sotto il profilo di una condivisione, ma se lui venisse in modo sincero dicendo che c'è il riconoscimento dei valori e di tutto il resto, ma secondo me potrebbe anche, dovrebbe però fare delle dichiarazioni in questo senso. Bisogna riconoscere la verità della storia, perché la verità non è che ci siano due verità, c'è una verità unica, ecco. Nella scuola di Pessano Combornigo, comune dell'Interland milanese, da ieri 22 bambini non hanno più diritto a pranzare in mensa con gli altri alunni. Si tratta di alunni di tutta l'età, visto che è un istituto omnicomprensivo che va dalla materna alle medie. Sentiamo perché. Hanno da 3 a 13 anni e da ieri in mensa hanno trovato il loro posto vuoto. L'azienda che gestisce il servizio, infatti, ha deciso di sospendere l'erogazione del pasto per i figli di quelle famiglie che nell'ultimo mese non hanno pagato i buoni da 3,80 euro l'uno. Tra i morosi c'è qualche nucleo familiare italiano, ma si tratta soprattutto di extracomunitari e rom. Finché la mensa era gestita dal comune, sui mancati pagamenti si chiudeva un occhio, ma da quando è passata ad un privato l'aria è cambiata. Dopo 2 solleciti è partito l'ultimatum, scaduto anche questo, per i 22 inadempienti è scattato il taglio del pranzo. Ieri è intervenuto un gruppo di insegnanti sacrificando il proprio pasto a beneficio degli alunni rimasti a digiuno. Da oggi si cerca una soluzione meno drastica, che non sacrifichi i bambini. Ai docenti e ai genitori la decisione non è piaciuta. Michela Pisconti, mamma di un alunno della scuola di Pessano. Il comune ha risposto che non ha i fondi per iniziare una controversia legale nei confronti di questi genitori, quindi i genitori che sono debitori automaticamente, i loro figli non potranno avere diritto al pasto. Le mamme di Pessano dunque chiamano in causa l'amministrazione comunale. Un'altra rappresentante, Giulia Di Francesco. Noi chiediamo che il comune si faccia carico di colmare queste insolvenze, anche perché nel capitolato d'appalto è chiaro una frase del contratto dove dice che la società Dussmann può non più somministrare il pasto, ma deve comunque informare il comune, il quale o dà l'autorizzazione alla non somministrazione del servizio o sopperisce a questa mancanza. Per ora ci si affida alla buona volontà di maestre e genitori, ma spetta alle istituzioni trovare in fretta una soluzione che sia rispettosa della dignità di quei 22 bambini. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Ieri vi abbiamo parlato di un cult della televisione, X Factor. Oggi, naturalmente, non potevamo mancare l'appuntamento con il vincitore della 9ª edizione di Grande Fratello, che si aggiudica quindi i 300.000 euro in palio, è Ferdi! Beh, l'avete sentito, è Ferdi dunque il vincitore del Grande Fratello 9, 22 anni, origini rom, è arrivato in Italia da bambino dal Montenegro con il padre che lo costringeva a rubare. È poi cresciuto in un istituto. Ora Ferdi, che si è aggiudicato il montepremi finale di 300.000 euro, sogna di iscriversi all'università. Le 13 e 17 minuti, nella prima parte del GR Extra Large, siamo tornati a parlare della conferenza ONU sul razzismo di Ginevra, nel giorno nel quale tra l'altro Israele celebra il giorno della memoria in ricordo della Shoah, e abbiamo sentito quali sono state le reazioni al discorso di Ahmadinejad di ieri nel mondo arabo. Abbiamo anche parlato delle celebrazioni invece per il 25 aprile, la festa della liberazione, sui dubbi e sulle polemiche per la presenza del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Vi abbiamo anche raccontato una bella storia, quella della maratona organizzata tra Betlemme e Gerusalemme dal Centro Sportivo Italiano. Ora parliamo di mercati. Ieri una giornata particolarmente negativa. Oggi, Deborah Rosciani, come stanno andando le borse? Allora, questa mattina le borse ci hanno provato a rimbalzare, almeno dal punto di vista tecnico, e invece sta tornando di nuovo la volatilità, sta tornando di nuovo il pessimismo, perché dopo una mattinata in cui gli indici hanno, come vi dicevo, tentato un recupero che è arrivato fino ad un punto percentuale, adesso di nuovo c'è una virata verso il basso, meno 0,7 Parigi, meno 0,5 Francoforte, meno 0,8% Londra e Milano, e la peggior piazza d'Europa perde un punto e mezzo. Ovviamente sotto i riflettori ci sono le solite banche, stanno andando benino in Europa i titoli del settore tecnologico dopo la grande acquisizione da parte di Oracle di Sun Microsystems e i conti di Texas Instruments, quindi grandi società che operano nel settore tecnologico, i conti sono andati bene, i titoli vanno bene, ma per il resto la borsa va male. A Piazza Affari calo di 5 punti per Fiat, è una settimana decisiva per la chiusura delle trattative con Chrysler, ma non ci sono ancora schiarite definitive e oggi il titolo scende ancora pesantemente. Per ora è tutto. E grazie Deborah per questi aggiornamenti. Gli aggiornamenti di borsa come sempre li ritroveremo alle 13.30. Nel frattempo sono stati diffusi dati che riguardano le esportazioni italiane verso i paesi europei. Hanno registrato a febbraio un calo del 27,5%, la maggiore flessione dal 93. Il saldo commerciale complessivo dell'Italia a febbraio è risultato negativo per 837 milioni di euro, in crescita, insomma quasi raddoppiato rispetto al disavanzo di 449 milioni dello stesso mese del 2008. I dati sono dell'Istat. E analizziamo ora come sta andando il settore del mobile, visto che domani a Milano si apre appunto il Salone del Mobile. Lo sappiamo, siamo in un periodo di crisi, anche se nei giorni scorsi sia Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, che il ministro Tremonti hanno detto in sostanza che ci sono dei timidi segnali di ripresa. Buongiorno a Rosario Messina, presidente Federlegno Arredo. Buongiorno a lei. Allora, che cosa ci può dire dal vostro punto di vista, dal punto di vista del vostro settore? Qualche segnale positivo, ad esempio sul fronte degli ordini, lo state registrando? Sì, in effetti noi dall'inizio dell'anno, per l'esattezza da febbraio, che già avevamo un'inversione di tendenza sulla negatività degli ordini dall'estero, perché rispetto al periodo ottobre-dicembre col meno 40-50 secondo dei paesi, avevamo già da febbraio un leggero miglioramento, ma che comunque non ci recuperasse più di 10 punti. La cosa estremamente interessante invece è la ripresa nel mercato interno, cioè qui abbiamo avuto intanto nel periodo ottobre-dicembre solo un meno 20, che poi è diminuito, a febbraio era ancora meno 20, a marzo meno 10, sembra in questo periodo che dovremmo arrivare quasi al pareggio, però anno su anno, aprile su aprile, cioè senza recuperare le perdite pregresse che magari recupereremo più avanti. Questo dunque sul fronte interno. Che cosa avviene invece per quanto riguarda l'export? Prima abbiamo citato i dati globali di febbraio, qualcuno dice che la ripresa potrebbe arrivare proprio dal settore, potrebbe essere trainata dalle esportazioni. Per quanto riguarda il mobile? No, sicuramente, tanto più che noi siamo un settore vocato all'esportazione, noi abbiamo il 52% nel prodotto mobile finito sull'export e ormai non da qui, da diversi decenni, per cui siamo presenti in 150 paesi del mondo e siamo anche noi convinti che prima dell'estate avviene un miglioramento, perché questo dipende anche dalla quantità di soldi che sia l'America che la Russia stanno immettendo nel mercato verso il consumatore, ed è anche dovuto al miglioramento della produzione industriale cinese, che a marzo ha avuto un più 8%, il che significa che comunque il mondo ricomincia a camminare. Presidente, ha l'impressione che i provvedimenti messi in atto dal nostro governo, e non solo dal nostro governo, visto che il vostro è un settore vocato all'esportazione, appunto, abbiano avuto un buon impatto sul vostro andamento, sull'andamento del settore? Sull'andamento del settore in Italia purtroppo no, perché l'unico incentivo che è stato messo era i famosi 10.000 euro su cui la famiglia beneficiava di 2.000 euro, cioè il 20% di IVA, ma purtroppo ahimè vincolato alla pratica di ristrutturazione, per cui in una situazione non di mancanza di soldi, perché le famiglie italiane ancora da gennaio a marzo hanno aumentato i depositi in banca e comunque siamo fra le famiglie meno indebitate del mondo, purtroppo è l'insicurezza che non spinge le persone a fare una pratica di ristrutturazione. Noi avevamo chiesto al governo, e devo dire che ringraziamo perché è stato messo a verbale alla Camera, che nei prossimi interventi si tenga conto invece di quello che noi avevamo sempre chiesto, cioè l'acquisto sulla prima casa. Quando uno ha una prima casa da arredare, questo beneficio lo deve avere. Quindi insomma incentivi per l'acquisto dei mobili per chi compra la prima casa. Esatto, questo vuol dire molto, perché in effetti stimola oltretutto dal punto di vista sociale anche la formazione di nuove coppie, e non dimentichiamo che in Italia abbiamo 1,5 milioni di appartamenti invenduti. Grazie a Rosario Messina, presidente di Federlegno Arredo, per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. Vi ricordiamo tra l'altro che Radio 24 seguirà da domani, dall'apertura, il Salone del Mobile, nei GR e in alcune trasmissioni. Giulia Crivelli, oggi con la rassegna stampa internazionale partiamo dal Pulitzer, il premio dei premi. Il premio dei premi, il mito per qualsiasi giornalista, e quest'anno il New York Times ha vinto, ne ha 25, è la seconda più cospicua vincita di Pulitzer della storia del New York Times. C'è però un articolo molto sobrio sul New York Times dove si dà conto in una maniera molto così da understatement di questo grandissimo successo. È probabilmente sarà anche un'iniezione di fiducia per il New York Times che, come ha detto anche il suo direttore, executive editor Bill Keller, ovviamente sta attraversando un problema difficile, perché è un momento difficile come tutta la carta stampata nel mondo, cercando di trovare la formula giusta per un equilibrio tra le notizie che vengono date gratis online, e forse presto non saranno più così gratis, e quello che invece viene stampato e pagato da chi va in edicola. E però in questi grandi momenti di cambiamento il New York Times tiene la barra dritta sulla qualità, e per questo vince tutti questi Pulitzer, perché tra l'altro sottolinea in questo articolo, sempre con molto understatement e senza usare paroloni, in campi dell'informazione molto diversi, dalle guerre nell'Asia a naturalmente la campagna presidenziale, per dimostrare la vocazione del New York Times a essere un vero giornale generalista e competente in ogni cosa di cui parla. Giulia, invece l'Herald Tribune ci propone una visione importante su quel che è la politica estera di Barack Obama. Il maestro della Realpolitik, Henry Kissinger, che insomma è stato il protagonista, credo, di tutta la politica americana, soprattutto la politica estera del dopoguerra, potremmo dire, ancora lucidissimo, arzillissimo. Questo intervento pubblicato oggi dall'International Herald Tribune prende spunto dal grande giro che ha fatto Obama, il primo giro all'estero, sappiamo, è venuto in Europa, poi è andato in America Latina, chissà dove andrà, e ha fatto una cappatina anche in Medio Oriente, chissà dove andrà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Secondo Henry Kissinger va tutto benissimo, si può dare a Obama sicuramente il beneficio della buona fede, è uno che ce la sta mettendo tutta, ha una visione grandiosa della pace nel mondo, del dialogo, e però secondo Henry Kissinger manca una vera e propria strategia diplomatica dietro, cioè una vera ragnatela in grado, con appunto anche il cinismo della politica e della diplomazia internazionale, di dare poi una forma concreta a questa grande visione che ha Obama. Però devo dire che Kissinger, per quanto appunto cinico in un certo senso, è a sua volta, come tutti noi forse, affascinato da questo grande progetto di cambiamento che ha Obama. Giulia, spostiamoci al di qua dell'oceano. Pare che ci siano molte preoccupazioni per il 1° maggio a Berlino. Chi è che ne parla? Sì, il 1° maggio naturalmente è una festa in tutta Europa, e il Tagesspiegel, che è un giornale tedesco con sede a Berlino, si sta attrezzando, perché sappiamo in Germania, come in tutta Europa, come in Francia, con tutti i boss napping, i rapimenti dei manager, c'è molto scontento, c'è molta tensione sociale per i licenziamenti, per l'insicurezza, la mancanza di fiducia, di cui parlava anche Messina poco fa. Insomma, questo è un sentimento generalizzato, e c'è paura che la manifestazione del 1° maggio, e per questo la polizia sta predisponendo misure di sicurezza senza precedenti, sfoci in violenze, perché c'è tensione, ma sappiamo poi che in una manifestazione bastano magari un piccolo gruppetto di violenti per far degenerare quella che poteva essere magari semplicemente appunto una democratica occasione di far vedere quali sono le proprie opinioni. Giulia, la nostra Alessandra qua accanto ne sa qualcosa, perché è una donna che spesso si occupa di editoria e di libri. Ci sono degli scrittori che sono delle vere e proprie macchine da soldi, tanto sì, che se ne occupa il Wall Street Journal. Sì, la nostra cacciatrice di libri sicuramente andrà a caccia poi anche di questo nuovo Dan Brown. È il nuovo libro appunto di Dan Brown, attesissimo, uscirà il 15 settembre. È proprio il seguito del Codice da Vinci, che ormai è uscito 6 anni fa nel 2003, si chiamerà The Last Symbol, l'ultimo simbolo, e tutti i librai ripongono in questo libro speranze enormi. La tiratura iniziale è di 5 milioni di copie. Non solo i librai, anche gli editori, perché qua, quando poi ci sono le fiere appunto per l'attribuzione dei diritti, è veramente, certo, una guerra, perché aggiudicarsi un mega seller significa stare bene per tutto l'anno, per, certo, un editore. E quindi insomma soltanto Harry Potter aveva avuto l'ultima Harry Potter, tra l'altro non tutti, aveva avuto una tiratura iniziale maggiore con 12 milioni di copie, e temo che tra l'altro la tiratura iniziale non basterà, perché tutti quelli che hanno letto il Codice da Vinci, lo scrive anche il Wall sui journal sono lì che non vedono l'ora, se non fosse che per curiosità di leggere appunto il seguito di questo grande bestseller. Grazie anche per oggi Giulia Crivelli, buona giornata. GR Extra Large, un rapido riepilogo delle principali notizie della giornata. Nel giorno nel quale Israele celebra il giorno della memoria, l'Europa è ancora spaccata al vertice di Ginevra sul razzismo. I rappresentanti che ieri avevano lasciato i lavori durante il discorso di Ahmadinejad sono rientrati. Dopo un'apertura positiva, le borse virano al ribasso, cali di oltre un punto percentuale in Europa. Vanno ancora male le esportazioni italiane. A febbraio la flessione maggiore dal 93. Dall'inizio dell'anno segnali di recupero per il settore del mobile, ha detto ad XL il presidente di Federlegno. Sicurezza sul lavoro, polemiche sulla cosiddetta norma salva manager. I parenti delle vittime della Thyssen scrivono a Napolitano. Per la ricostruzione dell'Abruzzo terremotato bastano meno di 12 miliardi di euro, lo dice il ministro delle infrastrutture, Altero Matteoli. Il Partito Democratico alla prova delle liste per le europee, prende quota l'ipotesi di Berlinguer nella circoscrizione nord-est. Lo sentivate già dai titoli, ci sono polemiche sul progetto di riforma del testo unico sulla sicurezza sul lavoro dopo che la FIOM CGIL ieri ha denunciato che contiene una norma che potrebbe sottrarre gli imputati dalle loro responsabilità. In diretta da Roma, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Come dicevate, da studio al centro del dibattito c'è il progetto di riforma del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. A lanciare l'allarme è la FIOM. Secondo la Federazione dei Metalmeccanici della CGIL, le attuali modifiche all'esame del Parlamento potrebbero portare un colpo di spugna alle accuse contro i dirigenti della Thyssen a processo per il rogo di Torino del 6 dicembre del 2007. Il nuovo articolo 10 bis, a giudizio della FIOM, escluderebbe le responsabilità dei manager se l'incidente è imputabile a medici, progettisti, fabbricanti e lavoratori. Da qui la lettera inviata dai parenti delle vittime al capo dello Stato e l'appello del sindacato guidato da Gianni Rinaldini al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano affinché blocchi un inaccettabile stravolgimento delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pronta la replica del ministro del Welfare Sacconi, che bolla le ipotesi del sindacato come odiosi pregiudizi e frutto di un processo sommario alle intenzioni. Il ministro spiega inoltre che la norma contestata non è in vigore e che non potrà avere in ogni caso ripercussioni sul processo Thyssen e comunque assicura Sacconi il governo rimuoverà ogni incertezza interpretativa. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Oggi in Senato arriva in aula all'esame il decreto sicurezza, ma intanto ci sono all'esame delle Camere il disegno di legge sicurezza. Insomma, a volte si crea anche della confusione fra il DDL e il decreto legge. Elisabetta Fiorito, aiutaci a fare un pochino di chiarezza innanzitutto. Allora, in aula a Palazzo Madama inizierà oggi a discutersi il decreto sicurezza, già approvato alla Camera e in scadenza per il 25 aprile. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano promette che il governo andrà avanti con l'approvazione definitiva del testo. L'esecutivo deve risolvere però le controverse questioni su ronde C eliminate alla Camera che la Lega vorrebbe reintrodurre. È polemica poi sul disegno di legge sicurezza che è all'esame invece della Camera. Per Pietro Grasso un emendamento limita i poteri del procuratore nazionale antimafia e chiede quindi che sia tolto. Inoltre l'Associazione Nazionale Magistrati contesta la norma, sempre inserita nel disegno di legge, che considera ai medici di denunciare gli immigrati clandestini. Oltre a ledere il diritto costituzionale, dicono i PM, provocherà un aumento degli aborti clandestini. E per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, a voi studio. E grazie Elisabetta per questi aggiornamenti e per questa chiarezza. Passiamo a parlare della ricostruzione in Abruzzo. Per la ricostruzione bastano meno di 12 miliardi di euro. Le parole sono del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, intervenuto questa mattina a Canale 5. La cifra di 12 miliardi era stata ipotizzata alcuni giorni fa dal ministro dell'interno Roberto Maroni. E sono 49 i comuni che potranno godere delle misure di sostegno varate dal governo appunto per la ricostruzione. Sono quelli inclusi nell'elenco fatto da responsabili della protezione civile Guido Bertolaso. Ieri abbiamo sentito le voci di alcuni sindaci esclusi dalla lista e che rivendicano una parte dei fondi. Ma Bertolaso ha già fatto sapere che amplierà la lista in modo assolutamente limitato, una linea che piace all'architetto e docente di urbanistica Luciano Di Sopra, che firmò la relazione sui danni del terremoto e il piano di ricostruzione in Friuli. L'ha intervistato Roberta Pellegatta. Lo Stato non è un assicuratore privato, anche perché lo Stato non incassa praticamente nessun premio assicurativo per poi rispondere dei danni. Lo Stato fa interventi di tipo solidaristico nelle zone veramente colpite da un disastro per evitare il formarsi di fenomeni di patologia sociale, di regressione economica, e quindi fermo questo principio, dove il danno è effettivamente catastrofico, è giusto intervenire con la solidarietà nazionale che si esplica in pieno. Se io ho un comune marginale che ha due edifici collassati, distrutti e tante piccole lesioni, io preferirei non inserirlo nel perimetro della zona solidaristica, ma procedere al riconoscimento puntuale dei due edifici effettivamente danneggiati, facendoli godere degli stessi benefici. Invece, se l'edificio è solo lesionato, non si capisce perché deve godere della solidarietà nazionale quando si tratta di una normale manutenzione dell'edificio. Quindi con questo principio si stringe molto il perimetro e invece si può parlare del principio di prevenzione su scala nazionale, perché tante zone a rischio non hanno nessun provvedimento, che ovviamente non sarà a carico dello Stato ma a carico dei privati con aiuti statali. Quindi questo modo di procedere al momento della protezione civile, anche se Bertolaso ha già annunciato che allargherà i benefici ad altri comuni rispetto ai 49 che sono strettamente nella lista, lei ritiene che questo modo di procedere per ora sia corretto? Molto corretto, è molto corretto quanto dice il dottor Bertolaso, che negli altri si vedrà puntualmente quali sono i problemi. Se puntualmente significa quello che ho detto io, siamo sulla strada ottima, buona. Uno dei sindaci esclusi da questa lista è quello di Sulmona, Fabio Federico. È stato intervistato questa mattina da Alessandro Milan nella trasmissione 24 Mattino. Adesso però i danni sono venuti fuori. Se lei pensa che io stesso non posso entrare nel mio ufficio da sindaco perché lesionato, ho dovuto firmare una trentina di evacuazioni per una trentina di evi immobili con le relative famiglie. Se lei pensa che ci sono appunto 60-70 persone che dormono in albergo, almeno 300 che dormono in tenda, e non si sa ancora quanti siano emigrati sulla costa, magari nella casa al mare o a casa di un parente, se lei pensa che abbiamo 15 chiese dichiarate inagibili, oltre 100 edifici con lesioni temporaneamente e parzialmente rilevabili, rilevate non da noi ma dal COM, sì, del commissario Bertolaso, se a questo aggiungi che ci sono 3 scuole di cui una completamente chiusa perché è pericolante. Insomma, lei dice tutto, visto tutto questo, rotte, avete diritto, a rientrare in questa lista. Insomma. Sì, ma noi non è che lo diciamo noi, rientriamo in questa lista, lo dice la legge. Lo dice la legge, noi siamo inseriti nel quinto grado della scala Mercalli dei danni, come se si fosse rotto un vaso di fiori. Ecco, noi abbiamo centinaia e centinaia di abitazioni non fruibili. E a causa del terremoto, si sa, è andato perso gran parte del patrimonio artistico e culturale dell'Aquila. Gravemente danneggiata anche l'Accademia dell'Immagine, che dal 95 forma professionisti del cinema. E proprio il mondo del cinema si mobilita questa sera a Roma per l'Accademia con una serata speciale. I premi Oscar Ennio Morricone, Vittorio Storaro, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gabriella Pescucci, Milena Canonero. E poi Michele Placido, Kim Rossi Stewart, Valerio Mastandrea, Massimo Ghini, Raul Bova, Alessandro Gassman. Il mondo del cinema si riunisce questa sera all'Auditorium della Conciliazione di Roma per contribuire a testimoniare concretamente la solidarietà con le popolazioni colpite dal terremoto. La serata è stata organizzata dal regista Riccardo Milani. Mi sono chiesto immediatamente cosa si potesse fare che non andasse a incidere sulle emergenze primarie delle persone in quel momento e in questi momenti, cioè le stufe, i letti, le case, insomma le emergenze vere. Però mi sono anche detto che se non è la prima emergenza, la cultura non deve essere nemmeno l'ultima se si vuole far ripartire veramente quella città e quella regione. E allora così ho mandato un sms un po' a un po' di persone, un po' di amici, di colleghi di lavoro. E devo dire la risposta è stata imponente, da subito, sulla possibilità di ricostruire la scuola di cinema dell'Aquila. La serata, realizzata con contributi privati e della Regione Lazio, sarà condotta da Serena Dandini con Laura Dellicolli e il Trio Medusa. Sarà per tutti possibile dare il proprio contributo. Le persone possono venire, l'ingresso è libero, sono 1200 posti, possono offrire dai 10 euro in su. Però ecco, vi dico che alcuni produttori, faccio anche i nomi, Pedro Valsecchi ha messo 50.000 euro, Carlo Bixio ne ha messi 45.000, la Sonia ha dato 100.000 dollari, insomma ecco, partiamo bene. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora invece spazio ai libri, Alessandra. Si intitola Gridare ed è una raccolta di 10 racconti scritti dallo spagnolo Ricardo Méndez Salmón, pubblicata in Italia da Marcos y Marcos. Ognuno di questi racconti inizia descrivendo una situazione quotidiana, poi subentra qualcosa di anomalo che finisce per portare i personaggi in una dimensione quasi surreale. Sono storie che girano intorno a temi come l'identità, il tempo, la vita, la morte e l'amore. In uno dei racconti c'è per esempio un uomo che decide di prendere in affitto una stanza fatta appositamente per gridare, come lo stesso autore ha raccontato al microfono di Chiara Romanello. Questa storia nasce... Proprio questo racconto nasce da un aneddoto particolare. Un giorno camminavo per una spiaggia e ho visto una bambina di 6-7 anni che era in riva al mare e gridava in assoluta libertà. Gridava di felicità contro l'acqua, potrei dire addirittura che lo faceva in modo esagerato, senza nessuna regola e senza nessun rispetto. E allora ho pensato che sono solo gli adulti a cui sono ristrette queste libertà. Un adulto non si permetterebbe mai di farlo, a meno che non scriva. E io credo che la letteratura sia la mia maniera di gridare. È mi maniera di poter seguir gritando in tutte le playas del mondo quando me la gana. Perché ha scelto questo titolo? Ho scelto questo titolo, Gridare, perché penso che sia uno dei racconti migliori del libro. E poi perché penso che gridare sia uno dei racconti che ci parla della metafora della letteratura. Lo scrittore cerca un posto dove gridare e il suo luogo per gridare è appunto la scrittura. E così può gridare quello che nella società, per ragioni etiche o sociali, gli viene proibito. Tutti gli scrittori cercano ese lugar intimo donde gritar e donde ejercer su arte. E a proposito di libri, vi ricordiamo l'iniziativa Io in un libro di Radio 24, in collaborazione con la Fiera del Libro di Torino, che quest'anno si svolge dal 14 al 18 maggio. In quale romanzo il vostro io si è più identificato? Quale personaggio della letteratura vi somiglia di più? Scrivete le vostre mail a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Ogni settimana, nella rubrica Il Cacciatore di Libri, in onda il sabato intorno alle 8:20 e in replica il venerdì, verranno regalati due biglietti per la fiera. E vi ricordiamo anche che Radio 24 sarà presente alla Fiera del Libro con i propri studi nel padiglione 2, quindi potete tranquillamente venire a trovarci. Le 13:45 minuti 58 secondi, adesso parliamo di politica italiana. Verso le elezioni europee, quelle del 6 e 7 giugno, ieri vi abbiamo un po' parlato dei simboli, anche di quelli più strani, dei più insoliti che sono stati presentati, da oggi invece entriamo nei dettagli delle liste dei candidati. A iniziare da quelle del Partito Democratico, oggi direzione del Partito Democratico proprio su questo tema, in diretta il nostro Andrea Viali. Andrea. Sì Simone, la direzione del Partito Democratico è al lavoro in questi minuti per definire le liste delle europee, liste che potrebbero essere chiuse già in giornata anche se restano in realtà ancora alcuni nodi da sciogliere. Al momento, per quanto riguarda i capolista delle 5 circoscrizioni elettorali, per quanto riguarda quella del Nord-Est il nome più accreditato sembrerebbe quello di Luigi Berlinguer, mentre al Sud il capolista dovrebbe essere l'ex ministro dell'agricoltura Paolo De Castro. Per le altre circoscrizioni invece il discorso è ancora aperto. In tutto sono 72 i candidati che il PD presenterà alle europee. Nelle ultime ore ci sono state alcune rinunce e c'è stato anche qualche malumore perché il segretario Dario Franceschini insiste nel voler candidare solo persone che poi andranno effettivamente a Strasburgo, e su questo lo ricordiamo. Nei giorni scorsi Franceschini aveva anche attaccato Berlusconi e Di Pietro, che sappiamo che si candideranno pur sapendo che non faranno mai in realtà gli europarlamentari. Quindi nelle liste del PD non dovrebbero esserci, salvo sorprese, candidati di bandiera o esponenti di primo piano, e questo secondo alcuni nel partito rischia di pregiudicare il risultato elettorale. Per il momento da qui è tutto, a voi la linea. Grazie Andrea Viali, naturalmente nei prossimi giorni avremo modo di parlare delle altre liste, di quelle del PDL ma anche degli altri partiti. Ma ora c'è un'ultima ora, Simone. Sì, se n'era parlato nelle ore scorse del problema degli obbligazionisti di Alitalia. Bene, il Presidente del Consiglio ha annunciato che il Governo sta lavorando all'ipotesi di elevare le misure dell'intervento statale già disposte appunto in favore degli obbligazionisti di Alitalia. Dopo che ieri è andata deserta l'assemblea degli azionisti, Berlusconi ha detto: le misure a sostegno sono state definite avendo presente lo stato della finanza pubblica, il terremoto nei giorni scorsi ha imposto nuove prioritarie necessità, pur in questo questo quadro il governo intende mantenere il proprio fermo impegno a favore dei risparmiatori. E se prima abbiamo parlato di elezioni europee e delle liste che si stanno creando in Italia, ora parliamo di altre elezioni importantissime, quelle del Sudafrica, che per la quarta volta vota per la quarta volta da quando la segregazione razziale è finita. Sul risultato sembra che non ci debbano essere dubbi. Chiediamo conferma all'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Ugo. Buongiorno. No, il risultato resta scontato, sarà lei in sì che vincerà, perché solo 15 anni dopo la fine dell'apartheid è ancora troppo presto che la gente non percepisca questo partito, il partito che è stato di Mandela, come il partito che ha liberato questo paese. Però è già comincia una lenta e piccola erosione, comincerà probabilmente da questa elezione a nascere una vera opposizione all'ANC e soprattutto un'opposizione interrazziale. Quello che è stato molto importante di questa campagna elettorale, molto interessante rispetto a tutte le altre dalla fine dell'apartheid, è che le questioni razziali non erano più di primo piano. Di primo piano sono le questioni economiche, le questioni sociali, la crisi internazionale e la crisi locale. Quindi ormai questo paese si sta un po' affrancando da questa sua eredità, da questa sua tragica, peraltro, eredità razziale. Ugo, questo quadro, in un continente, quello africano, nel quale, diciamo così, la Cina sta diventando il vero potere economico, che ruolo può svolgere il Sudafrica? Il Sudafrica è già di fatto la potenza economica dell'Africa, è il paese, l'unico paese veramente democratico, l'unico paese in cui c'è una effettiva economia di mercato aperta. Certamente il Sudafrica potrebbe essere un competitore della Cina. Il Sudafrica percepisce la Cina come un competitore perché va ad attaccare mercati che sono tradizionali, mercati istintivi e naturali, mercati dell'economia sudafricana, che appunto è, rispetto a quella, l'insieme da sola è tre volte l'insieme dell'economia solamente di tutta la parte meridionale dell'Africa. Però appunto il Sudafrica deve ancora risolvere due o tre problemi di stabilità, ha ancora una sperequazione sociale molto forte, anche perché l'eredità dell'apartheid, che dicevo, di cui parlavo prima, non è un'eredità facile da eliminare, perché ancora fino a 25 anni fa i neri, che sono l'80%, il 75% della popolazione di questo paese, si riteneva che non si dovesse insegnare la matematica, quindi si riteneva che dovessero essere solamente manodopera di bassissimo costo. Quindi ci sono prima queste sperequazioni che il Sudafrica deve risolvere e sta effettivamente lentamente risolvendo. Solo quando il Sudafrica va risolto questi suoi problemi interni, il Sudafrica diventerà il vero competitore della Cina su tutto il mercato africano continentale. Al di là del rapporto, diciamo, Sudafrica-Cina, Ugo, che valore hanno queste elezioni proprio da un punto di vista internazionale, anche per gli equilibri appunto internazionali, se ne ha importanza? Il Sudafrica è l'unico paese, come dicevo prima, veramente democratico e veramente di mercato africano. È l'unico paese che ha attraversato, ha fatto un cammino diverso di lotta di liberazione, di fine del colonialismo, di fine della segregazione. Anziché le solite rivoluzioni che finivano come sempre in mano ai partiti comunisti controllati o aiutati dalla Cina e dall'Unione Sovietica, ha fatto una scelta democratica. Mandela e i suoi successori anche hanno stabilito che la formula per il futuro sudafricano non dovesse essere i neri che sostituiscono i bianchi, ma un graduale equilibrio, perché l'economia e il sistema economico creato dai bianchi non venisse distrutto, come è successo praticamente in tutti gli altri paesi africani con la decolonizzazione, ma venisse, come dire, democratizzato. Ovviamente una formula di questo genere garantisce un futuro migliore, ma un futuro anche molto lungo, molto complesso, molto difficile, e per questa ragione appunto questi squilibri non sono ancora stati superati, anche se guardiamo un po' le statistiche tra il 1994 e oggi. In realtà sono aumentate le case, è aumentata la gente che ha diritto a raggiungere all'acqua corrente, all'elettricità, la gente che ha un lavoro cresce sempre di più, nasce una media borghesia, non solo alcuni fenomenali miliardari neri chiamati Black Diamond, ma certo, nasce effettivamente, sta nascendo anche una vera borghesia. Grazie Ugo Trambali, tra l'altro ci sentiremo domani con te, perché lo annunciamo già da oggi, domani XL andrà in onda in forma ridotta fino alle 13.30 per dare spazio poi a un lungo speciale dalle 13.30 alle 14 dedicato appunto alle elezioni in Sudafrica. Israele celebra il giorno della memoria, Europa spaccata al vertice di Ginevra sul razzismo, i rappresentanti che ieri avevano lasciato i lavori durante il discorso di Ahmadinejad sono rientrati. Dopo l'apertura positiva le borse virano al ribasso, cali di oltre un punto percentuale in tutta Europa. Berlusconi annuncia più soldi per gli obbligazionisti all'Italia. Vanno ancora male le esportazioni italiane, a febbraio la flessione è maggiore dal 93, dall'inizio dell'anno segnali di recupero per il settore del mobile, ha detto a XL il presidente di Federlegno. Sicurezza sul lavoro, polemica sulla cosiddetta norma salva manager, i parenti delle vittime della Thyssen scrivono a Napolitano. Ed è tutto per questa edizione della GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Rabescapè, il prossimo GR alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.